Cantine di Franciacorta. Bentrovati da Rodengo Saiano, siamo presso l'azienda agricola Mirabella, cantina da 500.000 bottiglie l'anno, da 60 ettari di vigneti. I proprietari hanno scelto una crescita lenta ma costante. Sentiamo Alberto Schiavi, socio ed enologo di Mirabella. Mirabella è nata nel 79, il socio fondatore è stato Teresio Schiavi. All'inizio si producevano 8.000 bottiglie all'anno, col subentro di altri 3 nuovi soci, quindi di nuovi terreni vitati, anche l'acquisto e l'affitto di altri quasi 40 ettari di vigneto ci ha portato appunto questa crescita costante, e si spera nei prossimi 10 anni di riuscire a crescere ancora un attimino senza fare dei grossi salti, perché preferiamo mantenere una qualità elevata piuttosto che una produzione elevata. È tutto, la prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.